Assange sfida la finanza, prossimo obiettivo le banche. Buona giornata alla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. La riforma universitaria dunque in primo piano dentro e fuori Montecitorio. Segue la giornata parlamentare la nostra Elisabetta Fiorito. Partiamo dunque da qui perché il governo Elisabetta è andato anche sotto poco fa. È proprio così, Anna Rita, governo battuto in aula della Camera durante l'esame del disegno di legge per la riforma dell'università. L'esecutivo è andato sotto su un emendamento di Future Libertà riguardo agli assegni di ricerca. Il testo, sul quale c'era parere contrario del governo, Commissione Cultura e Commissione Bilancio, è stato approvato con 277 sì e 257 no. Per la relatrice Paola Frassinetti del PDL si tratta di un emendamento tecnico che non incide sull'impianto della riforma. Questa mattina ha approvato anche l'emendamento contro le parentopoli nell'università. Non potrà rispondere ai procedimenti per la chiamata all'insegnamento chi è parente fino al quarto grado di un professore del dipartimento della struttura che effettua la chiamata. Ma per Antonio Di Pietro le misure non sono sufficienti. Il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmin è di fatto la dama salva Baroni. Alle 19 è atteso qui alla Camera l'inizio delle dichiarazioni di voto, poi il voto finale verso le 20. Future Libertà dovrebbe votare a favore del provvedimento e il provvedimento poi ritornerà al Senato per l'ultima lettura. Suspense invece per il voto di fiducia del 14, Fidiani potrebbero scegliere l'astensione o la sfiducia. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie Elisabetta. E traffico in tilt nel centro di Roma per i cortei studenteschi diretti proprio verso Montecitorio. Andrea Viali sta seguendo la protesta. Andrea. Sì, Anna Rita, è proprio così, sta bloccando di fatto tutto il centro di Roma la protesta degli studenti che, come dicevi, da diverse zone della città stanno raggiungendo la Camera dei Deputati, tutta la zona del centro storico che è attorno a Montecitorio, ma anche a Palazzo Chigi e a Palazzo Grazioli, la residenza del Premier Berlusconi, è stata isolata dalle forze dell'ordine che con mezzi blindati hanno anche bloccato tutte le vie d'accesso a questa parte del centro storico. Con uno spiegamento di forze, dobbiamo dire, che è stato visto raramente anche in altre occasioni passate, in altre manifestazioni passate. Alcune migliaia di studenti stanno prendendo parte al corteo principale che sta sfilando, corteo principale che è quello partito dalla Sapienza, dall'Università della Sapienza, e che in questo momento sta sfilando a Piazza Venezia, da dove vi sto parlando. La cultura fa paura, sbraniamo questo corteo, Hic sunt leones, si legge sullo striscione che apre il corteo, corteo che sta sfilando sotto la pioggia in modo sostanzialmente tranquillo, una protesta pacifica fatta di cori e slogan contro la riforma Gelmini. Pesanti sono invece i disagi, soprattutto per quanto riguarda la circolazione stradale, il traffico che i romani sono costretti a sopportare oggi. Per ora da Piazza Venezia è tutto, Anna Rita. Grazie Andrea. In tutta Italia manifestazioni e cortei in diretta. Maria Piera Ceci. Citare tutte le iniziative è davvero impossibile perché si stanno svolgendo cortei, occupazioni simboliche di rettorati e monumenti praticamente in tutte le città. Torino, Genova, Palermo, Napoli, Perugia, Brescia, Venezia. Qua e là si registrano contatti con le forze dell'ordine e tafferugli, ma senza gravi conseguenze. A Milano occupate per pochi minuti la stazione Cadorna e Garibaldi e uova sono state lanciate contro una delle sedi dell'Università Cattolica. Occupata una stazione anche in Calabria, quella di Scalea, e a Pisa. E secondo giorno di occupazione all'Università dell'Aquila. Bari invece occupato prima il ponte di Corso Cavour, poi il teatro Petruzzelli. Questo invece succede a Bologna, dove poco fa è stato bloccato anche il tratto cittadino dell'autostrada A14. Ce lo racconta Angelo Rinaldi dell'Unione degli Studenti. La protesta dilaga, siamo un po' ovunque, sui tetti, sulle facoltà, davanti ai rettorati, sui viali, stazione, la città tutta è in fermento. Fra poco proveremo a salire sulle due torri e da lì a trovare uno striscione con la frase di Monicelli: in Italia senza la cultura non rimane nulla. È tutto a te, Anna Rita. Avete sentito i giovani ai quali Monicelli si rivolgeva soprattutto negli ultimi tempi, lo ricordano e lo ricorda tutta Italia, ma non solo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per far luce sul suicidio. Ha rappresentato il cinema italiano entrando nella storia, mettendo nel nudo pregi e difetti, ha detto nell'aula della Camera oggi il vicepresidente Maurizio Lupi, ricordando proprio Monicelli, che domani sarà, lo ha annunciato il nipote, nel quartiere Monti Monti, dove viveva prima, e poi alla Casa del Cinema dopo per l'ultimo saluto. Oggi Monicelli è stato ricordato dal Capo dello Stato, dal Premier Berlusconi. Al termine di questa edizione di GR24, uno speciale d'Italia in controluce, racconterà Mario Monicelli, testimone della storia d'Italia. Adriana Fracchia ha intervistato il critico cinematografico Gianni Canova. Monicelli è stato dentro il secolo con un sorriso sarcastico, acre, feroce, beffardo. Ci ha fatto morire dal ridere, ma è stato anche capace di ridere della morte. Quando ho appreso la notizia della sua scomparsa mi è venuta in mente quella scena straordinaria del film Amici miei, in cui muore il Perozzi, il personaggio interpretato da Philippe Noiret, e quando gli amici lo vanno a trovare in ospedale poco prima che muoia, Perozzi guarda i compagni di tante zingarate e biscarate e dice: levatevi dai coglioni che devo morire. Mi piace pensare che Monicelli se ne sia andato così, in qualche modo con un sorriso feroce, consapevole, come dire, che la morte sta dentro la vita, e in tutti i suoi film questo lui ha raccontato. Dati economici adesso in diretta con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Lavoro ed inflazione in primo piano nei dati dell'Istat. Il tasso di disoccupazione ad ottobre ha raggiunto l'8,6% dall'8,3% di settembre. Si tratta del livello più alto dal 2004, anno di inizio delle serie storiche mensili. Cresce di conseguenza il numero delle persone in cerca di occupazione del 5,7% in un anno. Distinguendo per sesso, gli uomini arrivano al 7,7%, per le donne si è tornati ad una disoccupazione a due cifre, al 10%. Il capitolo dei prezzi al consumo, poi, il dato resta fermo tra novembre ed ottobre, più 1,7% invece rispetto a novembre 2009. L'Istat segnala un aumento tendenziale dei prezzi alimentari e delle comunicazioni. A livello congiunturale sono invece le spese per abitazione, acqua ed elettricità a registrare un incremento. In crescita anche il costo dell'istruzione, scendono le spese per i servizi ricettivi e di ristorazione. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. Invece le borse come stanno andando dopo i cali di ieri? Lo chiediamo alla nostra Deborah Rosciani. Situazione in ordine sparso questa mattina in Europa. Gli indici del vecchio continente, dopo i profondi cali di ieri, hanno provato a rimbalzare, ma il tentativo è fallito nel giro di pochi minuti. Hanno tutti invertito la loro direzione e adesso c'è una tenuta per Londra e Francoforte in rialzo rispettivamente dello 0,07% e dello 0,33%, quindi un rialzo estremamente modesto e contenuto, mentre Parigi è in calo ancora dello 0,27%, Milano, che stamattina è arrivata a perdere di nuovo un punto percentuale, adesso perde lo 0,46%, quindi tensione ancora piuttosto forte. La tensione di ieri non si è affatto smaltita e oggi prosegue anche sul mercato valutario. L'euro sul dollaro è scivolato a 1,2978, adesso è risalito oltre la soglia di 1,30, ma la fuga da tutto ciò che è denominato in euro sta ancora proseguendo, tensione che si riflette anche sul mercato obbligazionario, perché il differenziale di rendimento fra il BTP italiano e quello tedesco rimane ancora sui 200 basis point e quindi anche questo appunto sta a dimostrare quanto sia intenso appunto l'atteggiamento in termini negativi naturalmente da parte degli investitori verso tutto ciò che, ripeto, è denominato in euro a causa della crisi irlandese. Per ora è tutta, Narita. Grazie Deborah. Dunque, la crisi irlandese preoccupa ancora, ma in Italia ci sono aziende che hanno rialzato la testa dopo la crisi economica e noi ogni giorno vi raccontiamo le loro storie. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Per quanto riguarda il 2010 sul 2009, la percentuale di variazione positiva è stata intorno al 5-6%. Finalmente, per Francesca Fani, titolare della Pafa System di Prato, stanno arrivando tempi migliori. L'azienda produce macchinari tessili, in particolare per la produzione di filati speciali. E la crisi per il settore si è avvertita fin dal 2008, quando il fatturato è arrivato a meno 40%. Ecco allora qual è stata, secondo Francesca Fani, la ricetta per uscire dalla crisi. Siamo rimasti stabili sui nostri fondamentali, che sono, per quanto riguarda l'azienda meccanotessile, la continua ricerca e la continua innovazione e miglioramento di prodotto, e il servizio costante, l'attenzione al cliente e anche una certa capacità di essere flessibili per andare incontro a delle esigenze di mercato che sono sempre un po' più customizzate, cioè personalizzate sulla esigenza del cliente. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito questa mattina a Palazzo Chigi, non ha parlato di giustizia, ma ha approvato lo schema del decreto legislativo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Che cosa significa in realtà? Che saltano i certificati verdi, cioè quei titoli annuali con i quali si sosteneva economicamente lo sviluppo delle rinnovabili. I certificati verdi prevedevano anche che le società che producono energia da fonti inquinanti si facciano carico degli incentivi, acquistando i certificati in base alle emissioni. Insomma, il colpo al settore è duro, tanto che il presidente dell'Associazione Nazionale Energia Eolica minaccia le dimissioni, come racconta al microfono di Cristina Carpinelli. Sono miliardi di euro di investimenti realizzati negli ultimi 10 anni, sono 5.000 megawatt di impianti che stavano in questo momento quasi affogando, cioè con i default chiamati dalle banche ormai 6 mesi fa, perché il valore del certificato verde si era ridotto. E tutti attendevamo che venisse finalmente rimesso in linea con quelli che sono i livelli europei di remunerazione. Io personalmente ritengo di aver, come associazione, come figura, di aver fallito in quel compito di far comprendere alle istituzioni che questo è un danno che si fa al paese, perché le penalità che noi andremo a pagare saranno sui cittadini, che vedrà, ripeto, non solo bloccarsi gli investimenti futuri del settore, ma 30.000 persone del settore eolico a rischio, dipendenti e lavoratori, perché, ripeto, sono riusciti nell'intento non solo di chiudere lo sviluppo, ma anche di far fallire le iniziative già funzionanti. Notizia dell'ultima ora: Giorgio Assumma si è dimesso da presidente della SIAE, la società italiana autori ed editori, con circa 2 anni e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato. E poi c'è un'altra novità che riguarda l'università, parole di Casini pronunciate poco fa: no al decreto Gelmini, ha detto Casini, non ha le risorse, dunque l'UDC voterà no. E adesso parliamo di TV. Elenco di alcune cose che ho imparato facendo questa trasmissione. Ho imparato che la RAI è ancora un pezzo importante di questo paese, anche se spesso dimentica di esserlo. Sono stati 8.669.000 i telespettatori dell'ultima puntata di Vieni via con me, in onda ieri sera su Rai Trail. Programma di Fazio e Saviano ha avuto il 21,1% di share. 13:17, università blocchi in tutta Italia nel giorno del voto a Montecitorio, lo avete sentito anche nel nostro appuntamento con Strade in diretta, governo sotto su un emendamento di Futuro e Libertà. Domani nel quartiere Monti e poi alla Casa del Cinema l'ultimo saluto a Mario Monicelli. Nuovo crollo a Pompei nella casa del moralista. La cronaca con la scomparsa di Yara, riprese le ricerche. Ancora una buona giornata dalla redazione da Anarita D'Ambrosio, lo avete sentito dunque, a Pompei c'è stato un nuovo crollo negli scavi. Un crollo che preoccupa ma non sorprende, un altro pezzo di Pompei si è sgretolato. 20 metri più in là rispetto alla Scuola Armaturarum, a sbriciolarsi è stato un muro della casa del moralista, un edificio già chiuso, tanto che già da tempo non erano visibili i graffi, frasi moralizzatrici a cui la casa deve il suo nome. Non solo, pochi giorni dopo il crollo alla casa Armaturarum, danni c'erano stati anche ad un altro muretto, nella bottega del vasaio Zosimus, proprio adiacente alla casa del moralista. A segnalare l'accaduto oggi ancora una volta è stato un custode che se ne è accorto nel giro di controllo del mattino. Non sarebbe nulla di grave, secondo i tecnici, almeno stando ai primi sopralluoghi. Sarebbero caduti 6-7 metri di materiale incerto, di scarso valore, tufo e calcare. Un muro di fondo della casa che faceva da contenimento al peristilio, il giardino della Domus. In ogni caso il dato resta e non può che aggravare le preoccupazioni per lo stato di tutta l'area di Pompei. Vicino alla casa del moralista recentemente erano stati eseguiti dei lavori al terrapieno retrostante, inzuppato d'acqua. Una situazione che certo non è un'eccezione, né una sorpresa per i custodi, testimoni di crolli e cedimenti che negli ultimi mesi si sono fatti più frequenti. Li annotano certosini ogni giorno in un registro. Ora i carabinieri lo hanno sequestrato per capire fino a che punto fosse un danno annunciato. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da sud a nord a Brembate, dove sono riprese questa mattina le ricerche di Yara, scomparsa 4 giorni fa. Da Brembate in diretta Giovanni Capuano. Sì, buongiorno da Brembate, quarto giorno di ricerche in corso, sinora senza esito, anche se si allarga lentamente il raggio d'azione di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Unità Cinofile, impegnate qui a Brembate per cercare tracce di Yara, scomparsa venerdì sera ormai quasi 90 ore fa. Questa mattina dalla Svizzera è arrivato Joker, un cane segugio molto esperto, è stato portato alla palestra dove Yara è scomparsa. L'unico dubbio che non abbiamo è proprio quello della traccia, il cane segue una traccia perché c'è una traccia, non posso dirvi se è una traccia di venerdì sera o di giovedì o di lunedì. E la traccia è la stessa ancora rispetto a quella di ieri? È la stessa rispetto a quella di ieri. In questo momento vengono perlustrati pozzi e casolari fino a una decina di chilometri da Brembate. Si usa una supersonda in grado di captare ogni minimo movimento o rumore. È per cercare persone vive che però, se la sonda gli arriva vicinissima, riesce anche a prendere il battito cardiaco. Qui la usiamo in tutti gli anfratti dove è difficile scendere ai vigili del fuoco o alle persone. Queste le ricerche, cresce ovviamente la pressione, gli investigatori continuano ad escludere categoricamente l'ipotesi della fuga volontaria e del sequestro a scopo di estorsione. E da Brembate è tutto, linea allo studio. Grazie a Giovanni Capuano per questi aggiornamenti. Noi restiamo al nord ma ci spostiamo in provincia di Brescia. Ricorderete certamente la scuola di Adro, diventata famosa per i 700 simboli del sole delle Alpi che campeggiavano nell'istituto scolastico voluti dal sindaco leghista. Ebbene, ora la scuola di Adro dovrà esporre la bandiera italiana e quella dell'Unione Europea. Lo ha stabilito il Tribunale Civile di Brescia accogliendo un ricorso della CGIL. Prosegue la protesta degli immigrati sulla ciminiera dell'ex Carlo Erba a Milano dell'ultimo sceso sabato scorso. Si sono perse le tracce. È giunta al 26esimo giorno la protesta degli immigrati sulla ciminiera dell'ex Carlo Erba di via Imbonati a Milano. Sulla torre, dopo giorni di pioggia, gelo e neve, sono rimasti in due, un cittadino marocchino e uno italo-argentino. Si dicono stremati ma motivati a resistere. Per chiedere la sanatoria e protestare per le condizioni di sfruttamento, il 5 novembre scorso sulla torre di mattoni rossi erano saliti in cinque. Due sono scesi dopo qualche giorno, riuscendo a confondersi nel presidio di solidarietà sottostante. Anche il terzo, sceso sabato scorso, ha fatto perdere le proprie tracce. Ricoverato per ipotermia all'ospedale San Paolo, il 23enne egiziano domenica, dopo essere stato dimesso, ha lasciato la struttura eludendo la sorveglianza. Nessuno ci aveva avvertito che fosse sottoposto a fermo, chiarisce Novella Chaperon, medico della direzione sanitaria di presidio dell'ospedale, che esclude possano essere presi provvedimenti a carico del personale medico, inclusa una denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Non abbiamo mai ricevuto niente, né da parte della polizia, di un stato di fermo del paziente o di tenerlo ricoverato, né tantomeno il medico ha ricevuto adesso denunce. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo aperto questo secondo blocco di GR24 parlando del nuovo crollo negli scavi di Pompei. È intervenuto proprio poco fa il ministro Bondi dicendo no ad inutili allarmismi. Occorre circostanziare con prudenza l'accaduto, dice Bondi, ed evitare ogni inutile allarmismo. Appunto, la situazione a Pompei è continuamente monitorata, ha detto ancora il ministro, dai tecnici della soprintendenza. La cronaca dalla Sicilia: è scattata le prime luci dell'alba a Partinico, in provincia di Palermo, una vasta operazione antimafia, 23 gli arresti. Continuavano a mantenere il controllo del territorio nonostante gli arresti. Vitale a Partinico, paese alle porte di Palermo, facevano il bello e cattivo tempo. La reggenza del mandamento era passata dal padre, il boss Vito Vitale, detto Fardazza, al figlio minore Giovanni, arrestato all'alba di oggi assieme ad altre 22 persone, compreso suo fratello Leonardo, al quale l'ordine di arresto è stato notificato in carcere. 8 omicidi in meno di 2 anni, decine di attentati incendiari e neppure una denuncia. Ecco cos'è Partinico. Dall'operazione denominata The End è emerso il totale controllo del territorio da parte della criminalità organizzata, non solo attraverso l'imposizione a tappeto del pizzo, ma anche attraverso l'obbligo per gli imprenditori a rifornirsi da ditte compiacenti che praticavano prezzi maggiorati perché il surplus lo intascava Cosa Nostra. In manette anche l'imprenditore Alessandro Arco Bascio. Sentiamo a questo proposito il procuratore aggiunto Antonio Ingroia. Era ben più che compiacente perché è un imprenditore componente della struttura mafiosa. sono tanti imprenditori vittime e non c'è nessun imprenditore testimone. Questo è il momento di ribellarsi alla caccia al pizzo. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il caso Wikileaks punta sulle banche. A gennaio rivelazioni sul mondo della finanza, annuncia Assange, mentre il polverone sulle rivelazioni, quelle degli ultimi giorni, non si è ancora spento. È tornato a parlarne anche il ministro Frattini. Di sicurezza delle comunicazioni internazionali, il ministro degli esteri Franco Frattini discuterà sabato in Bahrain nel corso di una conferenza internazionale con il segretario di Stato americano Hillary Clinton. Sarà una prima occasione pubblica anche per appellarmi alla comunità internazionale affinché questo tema sia affrontato. Frattini, che si trova a Dubai, seconda tappa del suo tour medio orientale, ha spiegato che la questione della riservatezza delle informazioni governative e diplomatiche sarà oggetto di riflessione della comunità internazionale. Si tratta di un tema che in questa fase è particolarmente delicato, che abbraccia tutti i settori, dalla politica industriale alla sicurezza. Quanto al sistema di protezione delle informazioni italiane, Frattini non concede dettagli, ma afferma: credo che ci siano meccanismi molto molto forti di protezione delle nostre comunicazioni e anche dei nostri rapporti confidenziali. Nicola Filippone, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Dubai. E il nostro sondaggio di oggi era proprio dedicato a Wikileaks. Secondo voi fa bene a pubblicare documenti segreti? Vi abbiamo chiesto. Favorevoli il 59% dei nostri ascoltatori, la maggioranza; contrario il 41%. L'antitrust europeo ha avviato una indagine a carico di Google con l'ipotesi di abuso di posizione dominante sulle ricerche internet. Sentiamo. Google è per molti utenti della rete il primo strumento di navigazione, tanto che per alcuni siti internet costituisce la principale origine del traffico, persone che cercano su Google e poi arrivano sul sito desiderato. Nel solo settore della ricerca online ha quote di mercato che vanno dal 65% circa negli Stati Uniti, dove Yahoo e Bing tengono il passo, fino a quote superiori al 90% in alcuni paesi europei. Proprio in Europa l'azienda è stata denunciata all'antitrust da Microsoft tramite la controllata Chao, dal sito francese ejustice.fr e dal portale britannico di paragoni sui prezzi Foundem. La Commissione europea dovrà ora verificare se esiste abuso di posizione dominante, in particolare se nell'elenco dei risultati delle ricerche Google abbia penalizzato i concorrenti o gli abbia fatto pagare di più la pubblicità. Nel mirino anche presunte clausole di esclusività. L'indagine non sarà facile perché per stabilire come funziona il motore di ricerca è necessario conoscere il complesso algoritmo che lo fa funzionare, una formula matematica proprio all'origine del successo di Google. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Calcio, per ora tutti smentiscono, ma potrebbe esserci l'Inter nel futuro di Antonio Cassano. Fantacalcio. Così Massimo Moratti boccia l'idea più suggestiva, lo sbarco di Antonio Cassano in nerazzurro durante il mercato di gennaio. Ipotesi che rimbalza da più parti e da più giorni, visto che lo strappo tra il fantasista e la Sampdoria non è sanabile e che il flirt tra il Barese e i nerazzurri va avanti ormai dai tempi di Mancini allenatore. Ieri erano state diffuse anche delle cifre, accordo fino al 2013 per 4 milioni netti a stagione. Poi la brusca frenata di Moratti, che esclude l'arrivo di Fantantonio e anche di Fabregas, cervello dell'Arsenal. Da qui a gennaio però la strada è lunga. Soprattutto per ora c'è un Inter reduce da due successi e con il mondiale per club nel mirino. Meglio quindi non agitare le acque intorno alla scialuppa di cui Benitez ha appena ritrovato il timone. Poi, magari col trofeo mondiale in bacheca, si potrà tornare a sognare e, perché no, rischiare di dare a Fantantonio un'altra ultima chance. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR 24, curata in regia da Fabio Cantadori. Vi lasciamo l'ascolto di Italia in controluce, una puntata dedicata speciale al ricordo di Mario Monicelli. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.